Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Molto spesso noi siamo partiti dall'assioma che lo sport non è solo il calcio. A noi piace puntare l'attenzione verso sport che magari godono meno della luce dei riflettori, dei grandi eventi calcistici, una luce forse un po' troppo invadente ogni tanto. Oggi parliamo di tuffi, parliamo di un campione che è ricordato in tutto il mondo per essere stato uno dei migliori di tutti i tempi, entusiasmando tifosi, appassionati e nuovi appassionati che si aggiungevano in quei meravigliosi anni, grazie anche e soprattutto a una sfida con un altro grande tuffatore, Giorgio Cagnotto. Quindi indossiamo il costume da bagno e ci tuffiamo in piscina con il nostro protagonista, che è Klaus Di Biasi. Quando si parla di tuffi, insomma, possono venire in mente altri posti, le Hawaii, il Brasile, le scogliere da cui ci si impara a buttare fin da quando si è bambini. Ecco, dimentichiamoci tutto questo, perché Klaus nasce nell'ottobre del 47 e quando nasce vede attorno a sé solo montagne. Sono le montagne di Solbad Hall in Austria, dove il padre si è trasferito da Bressanone. Nel 53 la famiglia torna in Italia e vanno a Bolzano. La scelta è dettata anche dal fatto che Carlo Di Biasi, cioè il padre di Klaus, è già a sua volta un apprezzato tuffatore. Mio padre ha fatto le Olimpiadi di Berlino nel 1936 insieme a Ciccio Ferraris e Marianetti, e lui è arrivato in decima posizione, onorevole direi per l'epoca. Poi ho letto su un giornale che lui aveva dichiarato allora che non era riuscito a vincere una medaglia olimpica, avrebbe avuto il piacere che lo facesse qualcuno della famiglia, il figlio o la figlia. Una dichiarazione profetica. E intanto il piccolo Klaus segue gli allenamenti in piscina del padre e lo vede volteggiare nell'aria prima di entrare nell'acqua con le mani in avanti, quasi a spingere una porta invisibile. Forse è vero che insomma il DNA porta con sé molto di più che le caratteristiche fisiche, porta con sé un'attitudine, una passione, una propensione. Insomma, Klaus rimane affascinato dallo sport praticato dal padre. A 10 anni gli chiede di provare. Mio padre è stato un po' il mio esempio, ce l'avevo davanti tutti i giorni. Io stavo in piscina al Lido di Bolzano d'estate, giocavo con gli altri bambini, però guardavo mio padre che saltava dalla vetta lì dall'alto, dalla piattaforma dei 10 metri, finché un giorno mi sono messo lassù sdraiato mentre lui tuffava, lo guardavo dall'alto e poi gli ho chiesto: ma posso fare anch'io un tuffo da lì? E lui ovviamente mi ha detto sì, non vedeva l'ora. E da lì è nata un po' la passione dei tuffi. Eh sì, e quando ci si butta dalla piattaforma di 10 metri ci sono due tipi di reazioni: la mia, che è quella di panico, terrore, oppure la sensazione che ti fa innamorare di quel senso di volo simile al volo di un angelo. E questo è quello che accade per fortuna a Klaus, che da quel momento comincia a allenarsi sotto lo sguardo vigile del padre e dà il via alla sua splendida carriera. Nel 1963 Klaus non ha ancora 16 anni, però partecipa ai Giochi del Mediterraneo, vince la sua prima medaglia d'oro nella piattaforma da 10 metri. Lui esegue i tuffi con grande naturalezza, il suo fisico sembra predisposto ai salti mortali, agli avvitamenti, mosse che fanno parte della ginnastica artistica. A Bolzano non c'è la piscina coperta, nei mesi invernali ci si allena in palestra sul tappeto elastico e in questo quindi Klaus è avvantaggiato rispetto agli altri, perché questo tipo di allenamento intanto rinforza la muscolatura, però probabilmente affina anche la tecnica con l'eleganza del gesto, no? Diciamo sempre che lo sport dei tuffi è molto vicino alla ginnastica artistica più che al nuoto. Del nuoto in comune c'è solo l'acqua, dove è un mezzo di caduta, mentre il tuffatore si prepara per terra, in palestra, sul tappeto elastico, come abbiamo detto prima. L'esercizio di base è il salto mortale. Il tuffatore per terra esegue salti mortali in tutte le direzioni che poi gli serviranno dalla piattaforma: avanti, indietro, rovesciato, ritornato. E questo abbastanza giornalmente. I risultati si vedono. Di Biasi riesce a strappare il biglietto per le Olimpiadi di Tokyo del 64, prima Olimpiade. Ovviamente c'è del nervosismo, però accanto a lui c'è il padre Carlo e un grande allenatore che si chiama Horst Görlitz. È un allenatore che sta tirando su una generazione di giovani campioni. Sì, ero ragazzino, insomma, 16 anni, andavo per i 17. E la prima Olimpiade, tutto nuovo, il villaggio olimpico, gli atleti stranieri di tutti i tipi, tutte le razze, insomma, tutta la... Tokyo era la prima esperienza e anche per questo posso dire ero un po' inesperto, no? Io sono andato così, i primi tuffi, un po' di emozione e mi trovavo dopo 4 tuffi un po' indietro in classifica. Mentre poi dopo 7 tuffi ero primo e i giornalisti hanno cambiato i titoli dei giornali. Eh sì, dopo la prima giornata lui è solo 18esimo. Poi il giorno dopo si passa ai tuffi, come dicono loro, col quoziente di difficoltà più alto. E lui qui comincia a uscire alla ribalta. Arriva primo, combatte per la medaglia d'oro, poi non vince la medaglia d'oro perché sbaglia l'ultimo tuffo per emozione. Arriva secondo, sul podio più alto c'è Bob Webster, che peraltro aveva già vinto a Roma nel 1960, era una certezza. L'appuntamento però è solo rimandato. I giornali scrivono di questo nuovo giovanissimo atleta dai capelli ricci e biondi che vola proprio come un angelo dalla piattaforma dei 10 metri e scrivono che probabilmente darà grandi soddisfazioni alle Olimpiadi successive, quelle del 1968 a Città del Messico. Il falco e il gabbiano. E alle Olimpiadi di Città del Messico Klaus Di Biasi si presenta come favorito perché il ragazzino esordiente di 4 anni prima è diventato l'uomo da battere, anche perché arriva con una medaglia d'oro al collo, quella degli europei del 66. Intanto a Bolzano hanno ricoperto la piscina dei tuffi e quindi adesso lui si può allenare in piscina anche d'inverno e questo insomma è un bel colpo. Sono Olimpiadi particolari quelle di Città del Messico, all'interno del villaggio olimpico si respira la solita aria di festa, fuori la situazione è molto diversa, è sanguinosa, c'è la polizia che spara sugli studenti in protesta, tutto è ovattato all'interno del villaggio olimpico, agli atleti vengono tenute nascoste molte cose per loro fortuna e lui ha poco più che 20 anni, l'unico obiettivo che ha è la medaglia d'oro, l'unico avversario da battere è il campione di casa, il messicano Alvaro Gaxiola, che però non riesce a star dietro a Di Biasi. Fin dal primo giro di gara lui inserisce un coefficiente di difficoltà altissimo, superiore alla media, fa piazza pulita dei suoi avversari. Ma ecco il grande momento, quello che potrebbe significare una medaglia d'oro per l'Italia, è sulla piattaforma Klaus Di Biasi. Ecco che si illumina il tabellone, il tuffo che esegue è un doppio salto mortale e mezzo rovesciato con coefficiente di difficoltà 2,7, coefficiente molto alto. Ecco che ha preso la rincorsa, ha effettuato il salto, è entrato in acqua abbastanza bene, attendiamo il responso dei giudici e siamo già in grado di potervi offrire una classifica. Primo, Klaus Di Biasi, l'italiano Klaus Di Biasi, che ha così conquistato la terza medaglia d'oro per l'Italia con il punteggio di 164,18 punti. Quando si arriva in cima al mondo poi bisogna rimanere su quella cima, questa è la cosa più difficile. I 2 anni successivi a Città del Messico sono difficili per Klaus, non arrivano più i risultati, almeno non come prima, c'è un calo di forma, è uno sport particolare dove la concentrazione è parte fondamentale dell'azione, quindi le conseguenze si vedono subito. Negli europei del 70 a Barcellona Di Biasi va bene ma non benissimo, 2 medaglie d'argento, piattaforma da 10 metri e trampolino da 3. Le aspettative però erano tutte su di lui, tutti volevano e pensavano che vincesse. Bene, c'è da dire però che il vincitore è un italiano, è il compagno di camera di Klaus Di Biasi, si chiama Giorgio Cagnotto, è ancora più giovane di lui, vincerà il bronzo dai 10 metri, ma soprattutto l'oro nel trampolino da 3 metri. E poi c'è il torneo 6 nazioni di Blackpool. Qui Di Biasi ha il suo, diciamo, colpo d'ala verso il basso, fa addirittura un tuffo proprio sbagliato e merita 1-0. E qui entra in gioco ancora una volta il papà Carlo, che ha esperienza, ne ha vissute tante, insomma riesce a ridare una scossa vincente al figlio Klaus, e lui nei 2 anni successivi riprende fiducia, affina la tecnica di entrata in acqua, che è fondamentale per ottenere il minor numero di schizzi possibile. Lo sapete, il tuffo perfetto è quello nel quale non si solleva neanche uno spruzzo d'acqua. A posteriore, rivedendo un po' le cose, posso dire che la mia forza è stata, a parte il fisico longilineo, un po' abbastanza elegante nei movimenti, l'entrata in acqua, che a quell'epoca nessuno sapeva fare molto bene. Quindi c'era un'entrata con tanti schizzi in genere. E mio padre mi aveva insegnato un modo molto particolare a girare i polsi in questo modo, e l'entrata mia fu molto più bella di tutti gli altri. Eh sì, i polsi girati in avanti come a sfondare il muro d'acqua per aprirsi un varco. E così Di Biasi, insieme al suo compagno e amico Giorgio Cagnotto, si presenta all'appuntamento delle Olimpiadi di Monaco 72. La gara dei tuffi dalla piattaforma dei 10 metri vede alternarsi diversi atleti per l'oro. C'è Klaus Di Biasi, ma c'è Giorgio Cagnotto, però c'è anche il russo Ambar Kumian, poi c'è l'americano Riz, il tedesco Lothar Matthes. Insomma, tutti cercano Di Biasi, che comunque è sempre l'uomo da battere. Esegue un triplo salto mortale mezzo avanti raggruppato, 2-6 coefficiente di difficoltà, è lo stesso tuffo di Giorgio Cagnotto. E lo ha eseguito molto bene Klaus Di Biasi, lo ha eseguito molto bene Klaus. Sbagliato completamente il tuffo di Carlos Ghiron, e per Giorgio Cagnotto è il terzo posto, medaglia di bronzo per Giorgio Cagnotto. Primo Klaus Di Biasi, Italia, 504,12, medaglia d'oro. Eh sì, primo Di Biasi, secondo l'americano Reeds, terzo Giorgio Cagnotto, la conferma di una grandissima coppia. Poi passano altri 4 anni durante i quali lui mantiene, conferma la posizione di primato, vince la medaglia d'oro alle Universiadi del 75, vince i campionati del mondo a Cali, in Colombia, e poi la Coppa Europa nel periodo che va dal 65 al 75, lui la vince 7 volte. Adesso ci sono le Olimpiadi di Montreal, la quarta Olimpiade consecutiva per Di Biasi, che peraltro ha l'onore di essere il portabandiera per l'Italia. Questo infatti è stato un orgoglio personale. In Montreal avevo un grosso problema al tendine d'Achille, quindi zoppicavo un po' e non sapevo neanche se riuscivo a finire le mie gare. E infatti alcuni si chiedevano: ma ce la fai a fare la cerimonia di apertura, a camminare tutto questo tratto? E io ovviamente ce l'ho fatta, insomma ho voluto farla senza risparmiarmi, anche se poi avevo la gara. Anche questa volta il parco degli avversari è ampio e minaccioso. Il 21 luglio si era svolta la gara sul trampolino e lui è arrivato quarto, mentre Cagnotto ha preso un altro argento. Adesso c'è la piattaforma e qui le attese sono tutte per Di Biasi. Tra l'altro l'Italia in quelle Olimpiadi sta andando veramente male, e intanto peraltro dagli Stati Uniti arriva un nuovo giovane campione, un campione di cui abbiamo già raccontato la storia. Si chiama Greg Louganis, ha 16 anni e tutti sono convinti che sarà lui a contendere a Di Biasi il gradino più alto del podio. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di quello che tutta l'Italia chiamava l'angelo biondo, Klaus Di Biasi, il campione di tuffi che sotto la guida attenta del padre Carlo sta vivendo l'ennesimo momento magico della sua carriera. Una carriera partita con un argento a Tokyo nel 64, poi c'è stato a Città del Messico nel 68 l'oro, poi c'è stato Monaco nel 72, adesso siamo a Montreal e siamo alla finale della piattaforma di 10 metri. E qui la sfida è tra Klaus Di Biasi e l'americano Greg Louganis, l'astro nascente dei tuffi, che ha solo 16 anni. 26 luglio 1976, Di Biasi è sofferente per una tendinite, non è al massimo della forma, alla fine della prima sessione di tuffi è secondo dietro a Louganis, e ormai si delinea una sfida tra i due. Di Biasi peraltro ha 29 anni e l'altro 16, quindi è anche una sfida, ne abbiamo viste, ne vedremo ancora migliaia, il vecchio campione che difende lo scettro dal giovane emergente. Seconda medaglia d'oro per l'Italia ai Giochi di Montreal per merito di Klaus Di Biasi, 29enne della Bolzano Nuoto, alla sua quarta ed ultima Olimpiade. Fugati già alla vigilia, fortunatamente, i dubbi legati alla sua condizione fisica, che nei tuffi dal trampolino gli aveva addirittura pregiudicato un decoroso piazzamento, Klaus Di Biasi ha vinto dalla piattaforma il confronto con l'americano Louganis. Eh sì, avete capito tutto, la sfida la vince il vecchio campione, se si può dire vecchio, di un 29enne, vince con un tuffo che viene addirittura premiato con un 10, la perfezione. Si racconta che sul podio Di Biasi abbia sussurrato a Louganis: continua a allenarti, vedrai che tra 4 anni sarai al mio posto sul gradino più alto, cosa che probabilmente sarebbe successa, se non che alle Olimpiadi di Mosca dell'80, sapete, c'è il boicottaggio degli Stati Uniti, quindi Louganis inizierà la sua epopea 8 anni dopo a Los Angeles nell'84. Però c'è una notizia ancora più importante, perché Di Biasi annuncia che quella di Montreal è stata l'ultima gara della sua carriera. Il campione si ritira. Io veramente ho deciso di smettere per diversi motivi. Un motivo che sento di essere arrivato al punto di smettere, cioè me lo sento proprio, no? Poi un altro motivo, cioè che mi ha confermato la decisione, è che ho male al piede, c'ho una tendinite che anche adesso, a distanza di qualche mese dall'Olimpiadi, ancora ne risento, quindi penso che anche volendo saltare ancora farei piuttosto fatica. Dopo il ritiro dalle gare, Di Biasi rimane all'interno della squadra azzurra, lavorando come allenatore del suo amico fraterno Giorgio Cagnotto. Si va a Mosca nell'80 alle Olimpiadi del boicottaggio, in cui i nostri atleti sono liberi di gareggiare sotto la bandiera del Comitato Olimpico. Cagnotto alla terza Olimpiade, nella sua specialità, cioè il trampolino da 3 metri, ottiene una brillante medaglia di bronzo. Di Biasi allena la squadra italiana fino all'88, poi diventa consigliere federale, continua a lavorare alla ricerca di nuovi talenti e lascia il posto dell'allenatore ovviamente a chi? A Giorgio Cagnotto. Siamo nati praticamente in parallelo, una strada molto simile, e quindi ogni gara era importante, dal campionato regionale, sempre tête à tête con Giorgio, e gare nazionali, gare internazionali, c'era sempre questa sfida tra noi due. Siamo stati fortunati ad avere uno l'altro per crescere nella collettività, avere un paragone sempre vicino. Se fossimo stati da soli, sicuramente non saremmo arrivati alle medaglie che abbiamo vinto. Ecco, questa è la frase chiave di Biasi, che dichiara: siamo stati fortunati ad avere l'uno l'altro, se fossimo stati da soli non avremmo ottenuto quei risultati. E quindi noi abbiamo l'altra faccia di questa meravigliosa medaglia, che ha fatto entusiasmare più di una generazione, con l'Italia che di colpo si è trovata tutta, come capita a noi italiani, competentissima in tuffi, carpiati, avvitamenti, e tutti sapevamo tutto sui tuffi. Abbiamo Giorgio Cagnotto. Buongiorno Giorgio. Buongiorno a voi. Buongiorno. I tuffi erano una disciplina molto diversa prima del vostro arrivo, mi sembra, dal punto di vista tecnico, degli allenamenti. Com'era il mondo dei tuffi? Beh, diciamo, prima di Klaus, sì, di me, insomma, era abbastanza sconosciuta questa disciplina. Tant'è sì, vero che molti mi chiedevano: ah, fai tuffi? Ah, che stile fai? Vabbè, anche da lì sapevo già, si confondeva un po' i tuffi col nuoto. Comunque, poi Klaus vinse la prima medaglia a Tokyo nel 64 dalla piattaforma, e da lì insomma siamo diventati tutti esperti. È vero, tu hai detto insomma come i Beatles nella musica in qualche modo, è stato uno spartiacque. Lui sì, perché ha fatto cambiare i tuffi, perché aveva questa entrata secca con rumore di come uno strappo di una stoffa, e quindi questo, prima eravamo un po' abituati tutti a fare un po' delle bombette, ma va bene, sì. Lui ha fatto questa rivoluzione. Klaus in una sua intervista disse che la specialità dei tuffi era da accostarsi più alla ginnastica artistica che non al nuoto, sei d'accordo? Sì. Ma sì, sicuramente, perché noi diciamo che ci lega, noi siamo in una federazione italiana a nuoto perché c'è l'acqua, quindi noi ci troviamo nell'acqua, ma se ci fosse un altro elemento, tutto quello che facciamo come preparazione sarebbe atletica, come affiliato alla ginnastica, sono i nostri cugini. E senti Giorgio, com'era il rapporto tra voi due di amicizia? Però eravate anche a contendervi le medaglie. Beh, ovvio, sì. Quando si era sui trampolini ovviamente non eravamo più amici e fratelli, ognuno per sé, quindi uno faceva la gara, se l'altro sbagliava... Perché lì è una disciplina nella quale un pochino devi guffare all'altro. Quello fino a quel punto, in genere, insomma, quando fai uno sport individuale, specialmente il nostro che è fatto di concentrazione, diciamo che tu fai il tuo tuffo, poi pensi al prossimo, e diciamo gli avversari li segui marginalmente, guardi un po' il tabellone, ma insomma non deve essere un'ossessione quello che ha fatto il tuo avversario. Dunque la vita sportiva di Klaus inizia con un padre come allenatore, e questo iter si ripete nel tuo caso, perché tu sei allenatore e soprattutto hai la fortuna di allenare una donna, una ragazza che ha sdoganato i tuffi femminili presso il nostro paese, stiamo parlando di tua figlia Tania. Ecco, quanto incide il rapporto padre-figlio in un equilibrio così delicato come quello di preparare un'Olimpiade, per esempio? Sì, è delicato perché poi vengono fuori anche altri aspetti, che poi bene o male viene fuori il rapporto padre-figlio o padre-figlio, certo, dove ci sono anche scontri, diciamo, modi di pensare diversi, ma questo succede poi alla fine anche un po' con altri atleti, però diciamo che il figlio forse qualche volta si permette qualcosina di più. Io mi ricordo anche Klaus col papà, ho assistito a dei battibecchi, diciamo, che non ci sarebbero stati tra un atleta normale e un allenatore. Forse quello, però insomma sempre nel limite delle cose normali, perché poi comunque sapendo che papà allenatore, figlio atleta, diciamo sì, l'obiettivo è quello lì da puntare, quindi poi dopo si passa sopra e si ritorna ad essere alleati. Senti, l'ultima domanda che ti faccio è sul mondo dei tuffi di oggi. Io non voglio metterti in imbarazzo, però insomma se ne dicono tante, per esempio su queste cinesi che se si buttano e colorano l'acqua, ci sono forse anche delle leggende. Come vedi tu questa ascesa di nuovi movimenti di nello sport e nei tuffi in particolare, che arrivano da questi paesi, forse anche con qualche controllo in meno dal punto di vista etico? Ma allora, sotto questo aspetto non me la sento di dare giudizi, perché la nostra disciplina è una disciplina fatta di grande abilità. Certo. Per cui forse il doping arriva, ma fino a un certo punto. Quello certo che possiamo dire è che quei paesi, la Cina, magari poteva essere una volta la DDR, certo, la Russia, bravo. I cinesi reclutano, hanno i bambini, partono da 6 anni fino a 8 o 9 anni, quelli che sono, si allenano come minimo dalle 6 alle 8 ore al giorno. Sì, quindi non una cosa da bambini. Noi facciamo 2 volte alla settimana, se noi in una settimana facciamo 3 ore alla settimana, fatti i debiti calcoli, nel giro di quando hanno 15 anni loro sono pronti per vincere un'Olimpiade. Noi gli abbiamo appena tolto il latte dalla bocca. Magari siamo stati migliori dal punto di vista educativo, avremo delle persone. Io con questo non dico che farei il cambio. Certo, però loro certo sono. Esatto, l'esempio con la DDR, cioè c'erano atleti, bambini programmati per diventare dei campioni e basta, a tutti i costi. Sì, facevano una scelta molto curata. Intanto lavoravano solo su elementi preselezionati. Certo. Perché anche i tuffi noi prendiamo un po' tutti, perché piace questa disciplina. E certo, non perché è che bello fare sport a prescindersi. Esatto, però qualche volta bisognerebbe essere un po' più duri e consigliare, dico, guarda, sinceramente, prova questo con sport non fa per te. Certo. Certo. Giorgio, sei stato gentilissimo e complimenti ancora per tutto quello che hai fatto e stai facendo per questa disciplina. Grazie. Buona giornata a te. Grazie. Arrivederci. E a Londra nel 2012 Klaus Di Biasi è ancora lì nel team federale che accompagna la squadra. Per lui è la decima Olimpiade in carriera, ne ha viste tante, insomma, di cose, dall'alto della sua piattaforma o dal basso del luogo destinato agli allenatori. Ha visto grandi campioni, ha vissuto l'ebbrezza della vittoria, ha insegnato ai giovani col suo modo inconfondibile di entrare in acqua senza schizzi, con un fruscio che nessuno era in grado di imitare. Oggi è cambiata la tecnica, sono cambiati i costumi e i tuffi sono più spettacolari, più difficili, come in tutte le specialità. Anche in questo lo sport ha fatto i suoi passi avanti, ma per tutti Klaus Di Biasi rimane l'angelo biondo che ha regalato allo sport italiano una serie impareggiabile di colpi d'ala. Perché si può volare fisicamente verso il basso come la legge di gravità impone, ma in realtà verso l'alto come ha fatto per anni il suo campione, anzi i due campioni, i due gemelli del tuffo, Di Biasi e Cagnotto. Noi vi aspettiamo con altre storie, se volete segnalateci al Falco e Gabbiano @radio24.it, se volete che noi ci racconti qualcosa che vi interessa, e poi potete interagire sul sito di Radio 24, sui miei social, Facebook, Twitter, sui nostri social, insomma, se volete sapete dove sono. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Dodo Chipinti. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.